Questi qua non guardano su, le verità non le cantano più. Dicono che non bastano più, il mondo se vuoi spaccalo tu. Come faccio, eh? Tu mi chiedi come faccio. Come faccio, eh? Penso a guadagnarmi un compenso, ma hanno cambiato pure a me col tempo. Ultimamente me ne sto accorgendo, però poi li guardo tutti al concerto che saltano allo scoperto. Sembra che sappiano che ho sofferto, sembra che sappiano quanto ho offerto. Il cuore me lo strappano via dal petto, però non cambio quello che ho detto. Mai, mai, mai, mai. Perché è da quando avevo 13 anni che questi provano a non accreditarmi. Quasi che potrei citarli per i danni, ma mo non c'ho più tempo da dedicarti. Perché vado sopra i palchi come i grandi, voliamo come i falchi, come i santi. In corsa facciamo i salti da giganti. La forza ce la danno gli altri, mica i brillanti. Siamo sempre noi, siamo sempre noi, siamo sempre noi, siamo sempre noi. Qualunque cosa succeda alla fine della sera siamo sempre noi. Vieni, sulla traccia siamo sempre noi. Vieni, ancora scarichi gratis la vita mia. Io lo faccio perché so che lo vuoi. Siamo sempre noi. Siamo sempre noi. Quindi quando esce il disco, compralo e mai.